Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Globetrotter 24 di Valeria De Rosa. Buon pomeriggio, in queste domeniche di luglio ripercorreremo insieme alcuni degli itinerari che abbiamo ascoltato e immaginato in questi mesi. E non mancheranno però anche consigli nuovi di Zecca, il sommario. Questa settimana guida alla mano 400 km a piedi dalla costa adriatica a quella tirrenica. Poi andiamo in Liguria, a Cervo per il Festival Internazionale di Musica da Camera e poi a Sarnico, Borgo Arancione del Touring, in provincia di Bergamo. Camminare in questa estate fuori dagli schemi, camminare dalle Marche, partendo da Ancona, per arrivare al Mar Tirreno, dopo aver attraversato Umbria, Lazio e Toscana, e con una guida tra le mani, Italia Coast to Coast, quarta edizione di Simone Frignani. Italia Coast to Coast è un percorso di 400 km dall'Adriatico al Tirreno, più esattamente dal Conero all'Argentario, percorribile sia a piedi che in bicicletta. Il percorso l'ho ideato e tracciato io e l'ho descritto nella guida Terre di Mezzo, che è giunta alla quarta edizione. In questa nuova edizione troviamo una revisione del percorso. Fondamentalmente non troviamo delle grosse modifiche di percorso, che ormai è stato testato e assodato durante questi anni e funziona molto bene, però c'è stato un ampliamento delle possibilità di alloggio e sono sorte anche alcune ospitalità a donativo, quindi a offerta libera. Questa è una grande novità per un percorso che non si propone come un itinerario di pellegrinaggio, ma un percorso laico da mare a mare. E poi è nata la figura dell'amico del coaster, cioè persone in loco di buona volontà che si sono appassionate a questo progetto, sono sempre di più gli amici di Italia Coast to Coast e che si danno da fare e si rendono disponibili per tutti i camminatori per qualsiasi tipo di esigenza, che può andare dalla necessità di alloggio piuttosto che a suggerimenti di percorso o quant'altro. Quindi uno, seguendo l'itinerario Italia Coast to Coast con la guida, trova tutti i riferimenti di questi amici dei coaster ai quali può rivolgersi per qualsiasi necessità. Il percorso è assolutamente molto molto bello, un percorso, questo tengo a precisarlo, non segnato, quindi non c'è una segnaletica verticale, però è descritto molto accuratamente nella guida e poi sono disponibili le tracce GPS, quindi per approfondimenti invito anche a visitare il sito, che è italiacoste2coste.it, procurarsi la quarta guida giornata di Italia Coast to Coast e partire. Sono sicuro che vi sorprenderà. Allora, intanto è un'esperienza che mette insieme un po' tutto, mare, collina, montagna, perché si va da una parte all'altra, per cui c'è un po' tutto. Secondo te, se uno volesse farli tutti e 400 questi chilometri, Quanto ci potrebbe mettere? Ma allora, io nella guida suggerisco una suddivisione in tappe, che sono 18 giorni a piedi oppure 9 giorni in bicicletta. Naturalmente il percorso è personalizzabile in base alle proprie capacità e alle proprie esigenze, però diciamo il camminatore medio secondo me fa bene a seguire questa suddivisione in tappe, che è una suddivisione che permette di vedere tutto e davvero la ricchezza che troviamo su Coast to Coast è enorme. Come dicevi prima, troviamo il mare, la collina, la montagna, ma soprattutto anche tanti luoghi estremamente interessanti che vanno da siti storici, città d'arte, testimonianze etrusche, preromane varie. Quindi questa suddivisione permette di vedere tutto con calma, magari partire non prestissimo alla mattina e arrivare nel primo pomeriggio e avere ancora qualche ora a disposizione per visitare i luoghi. Sì, Simone, cerchiamo di dare anche qualche spunto in più a chi si vuole avventurare o che magari ne vuole fare anche solo una parte, perché non è detto che poi si abbia magari la disponibilità per fare tutto il percorso. Ci sono, immagino, dei posti che tu hai attraversato ai quali sei rimasto magari più legato o dai quali sei rimasto più colpito, magari proprio quelli che sono meno conosciuti. Beh sì, indubbiamente. Allora, diciamo che è molto personale. Io trovo, ma non solo io, è un po' anche il sentimento comune dei camminatori, trovo che non ci sia niente da scartare in Italia cost to cost, perché davvero dall'inizio alla fine è un'immersione totale nella bellezza. Per cui il consiglio che do è, per chi ha tempo a disposizione, percorrere dall'inizio alla fine. Ma per chi avesse magari a disposizione solo una settimana o 10 giorni, può facilmente scegliere di percorrere una parte del cammino. In effetti il cammino è facilmente accessibile con i mezzi pubblici, ovviamente la partenza è da Ancona, da Porto Novo di Ancona, quindi Ancona raggiungibile in treno, ma in una settimana si può ad esempio arrivare ad Assisi, e già questo tratto Porto Novo Assisi è un cammino già di per sé, cioè un cammino con destinazione francescana che percorre tra l'altro un cammino lauretano e francescano primitivo. Per chi avesse magari 5 giorni a disposizione può fare una traversata dell'Umbria molto bella da Assisi oppure anche da Nocera Umbra fino ad Orvieto, e anche lì si è ricollegati con i mezzi, e poi l'ultima settimana una full immersion nel mondo etrusco, quindi ci infiliamo nelle vie cave etrusche e da Orvieto fino a Orbetello. Che dire, è tutto bello, diciamo è l'Italia che non si conosce, l'Italia che sorprende, perché ad esempio le Marche è una regione che stupisce, l'entroterra marchigiano, che è abbastanza poco turistico devo dire, ma dei paesaggi meravigliosi. L'Umbria la conosciamo tutti molto bene, ma devo dire non si conosce così bene come se la si percorre a piedi oppure in bicicletta, e l'ultima settimana secondo me è davvero un crescendo di stupore e di emozioni, perché ci si avvicina verso la fine del cammino, verso quel mare Tirreno tanto aspettato, appunto facendo questa infilata di luoghi etruschi che è qualcosa di incredibile. Tu in apertura citavi due cose che appunto sono anche due novità di questa nuova edizione. Vuoi darci qualche suggerimento per quel che riguarda queste strutture che ospitano anche attraverso appunto una donazione, che come giustamente dicevi questo non è un cammino religioso, dove più spesso è facile incontrare questo genere di ospitalità? Ma sì, i riferimenti sono tutti sulla guida. Credo che fondamentalmente sia una passione da parte di persone che si sono trovate sui luoghi, a vedere questo passaggio sempre crescente di persone che arrivano dall'Italia e anche dall'estero, proprio perché il camminatore è una persona che ispira fiducia, ci si vuole entrare in contatto, e quindi sono tante queste persone che alla fine si sono messe a disposizione, magari avevano a disposizione una camera della loro casa e l'hanno donata ai coster, no? Come si chiamano quelli che percorrono Italia cost to cost, e insieme a queste figure di ospitaliere donativo poi sono nati anche gli amici del cammino che citavo prima, insomma appunto persone di riferimento per qualsiasi necessità del camminatore. Stanno nascendo delle bellissime amicizie davvero grazie a questo progetto, quindi al di là di questi luoghi meravigliosi da vedere, trovo che ci sia anche una componente umana che è davvero eccezionale, che poi alla fine fa tornare, si parte da camminatori e si arriva da amici, quindi poi si ritorna molto spesso anche con parenti e con amici. A proposito proprio di questo scambio umano che tu citavi, immagino che sia anche un modo per trasmettere, se vuoi in qualche modo anche tramandare, quello che i posti più piccoli, quelli più dimenticati, stanno un po' magari perdendo via via nel tempo. Invece questa modalità qui permette di raccontarli, no? E chi li attraversa poi in qualche modo potrà riraccontarli a sua volta. Sì, indubbiamente c'è tutta un'Italia minore, come io la chiamo, cioè a fianco di luoghi anche, se vuoi, molto turistici, perché si tocca Assisi, si tocca Orvieto, insomma anche giustamente turistici per quello che offrono, però troviamo tutta una serie di piccoli borghi per lo più tagliati fuori dal turismo di massa, e non di meno interessanti, insomma, anzi forse proprio per il fatto di essere un po' secondari è capace di attrarre il viaggiatore attento. Italia Coast to Coast sta ridando vita a questi borghi, li sta valorizzando assolutamente, luoghi dove uno probabilmente in macchina non ci arriverebbe, perché tagliate fuori dalle arterie di comunicazione ci arriva invece agevolmente a piedi o in bicicletta, e quindi questo sta poi creando tutta una serie di anche di iniziative, di interesse, ma anche di iniziative in questi piccoli borghi che si sono resi conto di essere parte di un cammino che sta diventando sempre più importante e che li porta i camminatori, o se lo vuoi vedere da un punto di vista turistico, i turisti, praticamente a costo zero, no? E quindi c'è una grande valorizzazione dell'Italia, che poi, come sappiamo, è un paese è talmente ricco di posti ai quali spesso non facciamo nemmeno caso, forse perché abbiamo troppa ricchezza. Ecco, Italia Coast to Coast sta dando una mano a riscoprire questo paese minore, che in realtà minore non è. Ci fermiamo solo per qualche momento, non andate via. Il nuovo ciclo di Un luogo, una storia, ambientato durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale. Gli sbarchi degli anglo-americani nelle spiagge della Sicilia e Anzio, Cassibile e l'armistizio dell'8 settembre 1943. Milano, Firenze, Napoli, Genova e Torino. Il viaggio lungo la linea gotica da Massa alle Marche. Sono Daniele Biacchesi, vi narrerò le piccole storie che attraversano i posti e la grande storia, ogni venerdì in podcast su radio24.it. Globetrotter 24. Ripartiamo dalla Liguria e dal borgo di Cervo, siamo in provincia di Imperia e qui da oltre 50 anni si svolge il Festival Internazionale di Musica da Camera, che non si è fermato nemmeno quest'anno, riuscendo a coniugare la sicurezza con la musica. Walter Norzi, presidente della Commissione Festival di Cervo. Questo è un festival internazionale di musica da camera, nato nel 1964 da un grande violinista ungherese, Sándor Weg, che ebbe questa felice intuizione vedendo Cervo. Cervo è un posto, un borgo medievale e tendente al barocco successivamente, dove c'è una piazza che è un teatro naturale dietro a questa chiesa dei Corallini, meravigliosa. E quindi evidentemente di lì è nata l'idea di fare su questa piazza questo festival, che è stato decisamente molto gradito da subito, e da lì evidentemente si è costruita l'immagine di questo piccolo borgo di circa 1000 abitanti, che si dava una connotazione, incominciava a darsi una connotazione artistica, che è poi tutto sommato la forza a tutt'oggi di questo borgo. In questo festival, appunto, 57 anni di grande storia, sono passati veramente i musicisti più grandi al mondo, quindi da Arturo Benedetti, Michelangeli, a Nikita Magalov, Kempf, Uto Ughi, per citarne Gazzelloni, per citarne alcuni, ecco, dei più grandi, Gidon Kremer, e la linea potrebbe continuare veramente per tanto tempo, ecco. Però in questa fase noi cerchiamo così di avere veramente sempre il meglio, e indubbiamente Cervo, per la sua bellezza e per la sua importanza come festival, è indubbiamente meta di grandi musicisti tutt'oggi. Allora, andiamo con ordine. Lei ci ha elencato i grandi nomi che si sono susseguiti negli anni. Facciamo qualche nome anche per quest'anno. Allora, quest'anno è un'annata decisamente molto particolare, perché con il Covid, e non mi dilungo oltre su questo tema, è un'annata nella quale abbiamo, in modo, passatemi il termine, spintaneo, avuto l'idea di, già che noi siamo un festival internazionale, musicisti solo italiani, ma di altissimo profilo. Banalmente, venerdì 17 inizieremo con uno dei più grandi pianisti italiani viventi, che tra l'altro è anche docente al Mozarteum di Salisburgo e che quindi è un elemento di assoluto valore. Successivamente passiamo a Paolo Fresu con la sua formazione di un trio stupendo, e tra l'altro quest'anno ci sarà una grossa novità: faremo dei doppi concerti nell'ambito dei concerti amplificati. Con Paolo Fresu faremo due spettacoli in modo tale da seguire e risolvere quello che è il problema del distanziamento, ecco. Poi grandi collaborazioni con il Festival del Teatro di Borgo Verezzi, che è una realtà a livello nazionale per il teatro molto, molto importante. Ecco. Altri spettacoli sono collegati ad esempio alla fondazione del Teatro Carlo Felice di Genova, altra voce molto importante della nostra Liguria, il Club Tenco per citarne. Ecco. E via, e anche altri, non a caso anche la fondazione dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo. Ecco, noi cerchiamo in ogni caso di andare a collaborare con il meglio che è in questa regione, di primo spunto, e poi con altri festival a livello internazionale. Quest'anno, appunto, in occasione dell'apertura, collaboriamo infatti con una fondazione svizzera che organizza un concorso internazionale importantissimo, perché è il concorso Gesanda di Zurigo, e Pietro De Maria ne è stato uno dei vincitori. Avremo tre concerti jazz, per citare quelle che sono le tematiche di quest'anno, quindi oltre a Paolo Fresu, Fabrizio Bosso, Danilo Rea, avremo invece, per ritornare al classico, l'Anna Tifu al violino, straordinaria interprete del violino. Avremo anche, diciamo così, collaborazioni importanti con il Paganini di Genova, ecco, e quelli sono elementi assolutamente imprescindibili. Parliamo anche dell'arco temporale in cui si svolge il festival. È cominciato, però si snoda anche durante un periodo abbastanza lungo. Assolutamente sì, è un periodo che accompagna l'estate di Cervo, quindi appunto siamo partiti il 17 di luglio col concerto che citavo poc'anzi di Pietro Di Maria al pianoforte, per arrivare al 28 di agosto, quindi sono praticamente 11 serate, di cui 6 di queste 11 vengono anche effettuate con replica, quindi doppio concerto, quindi un periodo che copre anche da un punto di vista turistico e culturale la parte più importante della stagione estiva, ecco, di questo meraviglioso borgo. Che è appunto un'occasione proprio anche per venirlo a conoscere, quindi si può assaporare un bellissimo concerto e si può godere anche delle meraviglie di questo centro. Come dico sempre, mi piace vincere facile, ecco, perché in un borgo così bello, uno tra l'altro dei borghi più belli d'Italia, evidentemente c'è una bellezza incredibile, con degli scorci, con dei caruggi, con una vista sul mare panoramica, anche proprio dalla piazza dei nostri concerti. I nostri musicisti ne sono commossi, ma è proprio così, e si trovano sempre molto bene, perché Cervo è indubbiamente una cornice straordinaria. È una cornice tra l'altro straordinaria non solo per la musica, ma anche per la letteratura. Abbiamo avuto pochi giorni fa anche il vincitore del premio Sprega a Cervo, e quindi per dire che Cervo investe pesantemente sulla cultura, e il nostro sindaco di Cervo continua su questa onda culturale di questo bellissimo borgo. Dalla Liguria alla Lombardia ci fermiamo a Sarnico, borgo arancione del Touring Club Italiano in provincia di Bergamo, un territorio messo alla prova da questa pandemia. Il sindaco di Sarnico è Giorgio Bertazzoli. C'è una contadina, curva sul tramonto, sembra una bambina di 50 anni e di 5 figli. Il nostro comune Sarnico è uno dei comuni più belli d'Italia, anche perché siamo tra i 240 erotti comuni delle bandiere arancioni del Touring Club. Inoltre siamo Best Liberty City dal 2017, candidati al patrimonio dell'UNESCO per l'umanità, appunto, per le ville Liberty, perché abbiamo esempi molto importanti di ville Liberty, che sono tre ville, più un mausoleo al cimitero, più il nostro asilo comunale. Dopo siamo famosi anche in tutto il mondo per le famose imbarcazioni Riva, che sono a Sarnico, da dove escono gli yacht più belli del mondo. Quindi poi c'è un borgo medievale dell'anno 1000, molto bello, abbiamo 2 chilometri di passeggiata, 13 parchi, abbiamo comunque il lago Iviseo che è diventato famoso con The Floating Pierce nel 2016 in tutto il mondo, e ricordiamo il grande Cristo che è morto in questi giorni, e poi siamo tra collina e appunto lago, in un paesaggio quindi incastonato che è veramente meraviglioso e merita di essere visto. Immagino, sindaco, che anche per voi, come per tutti i sindaci, questo sia stato un periodo davvero complicato, molto pesante, molto impegnativo. Immagino anche che in qualche modo vi stiate preparando a questa stagione, che non sarà sicuramente una stagione estiva come le altre, ma avrete pensato, immagino, e adottato delle misure. Assolutamente, noi stiamo facendo una ripartenza come tutti. Purtroppo quest'anno non ci saranno i famosi eventi che facciamo tutti gli anni, perché non ci può essere aggregazione, e vabbè, quest'anno è un anno particolare, però abbiamo riaperto in sicurezza i nostri lidi, abbiamo 4 lidi dove possono venire le persone, abbiamo tutti i ristoranti e bar che sono di nuovo a pieno regime, soprattutto sul lungolago nel centro storico, quindi anche i negozi hanno riaperto un po' a fatica, un po' tutti, però alla fine ce la stiamo mettendo tutta, perché Sarnico è legato a un paese turistico, quindi deve essere supportato, a supporto anche l'amministrazione comunale per tutte le nostre attività. Infatti in questi giorni ho fatto proprio un piano di ripartenza, soprattutto per le attività economiche, dove diamo degli aiuti consistenti ai nostri commercianti. Ovviamente non ci possono essere delle manifestazioni, diciamo così, che prevedano assembramento, ma avete previsto qualche momento particolare in questa estate che possa richiamare, anche se magari dilazionato nel tempo, i visitatori? Allora, abbiamo previsto comunque delle chiusure straordinarie di piazze sul lungolago soprattutto, e anche diciamo di alcune vie sempre a ridosso del lungolago, in modo tale che i nostri baristi possano allargare i plateatici soprattutto nel weekend. E la cosa bella è che magari metteremo dei piccoli complessini che fanno musica, quindi all'interno di ogni locale, e in modo tale per allietare un po' anche i passanti, sentendo della bella musica e comunque potendo usufruire anche dei nostri servizi. Quindi anche se non faremo dei grandi eventi come il Basker Festival, che è appunto siamo arrivati oltre il 20° anno, che è uno dei festival più importanti degli artisti di strada, oppure la processione di barche illuminate che è Stella Mari su Artisti in Erba, o altre, avevamo anche quest'anno Miss Italia, le regionali di Miss Italia, la finale. Avevamo, culturalmente parlando, la bellissima mostra alla nostra Pinacoteca, perché ricordo che abbiamo anche una Pinacoteca molto bella con oltre 200 opere dal 500 al 700, e avremmo avuto Salvador Dalì e la Divina Commedia. Purtroppo sono eventi che li posticiperemo per l'anno prossimo. Sarnico è sempre ricco di eventi da maggio a ottobre, che è la stagione, e anche adesso stiamo potenziando l'inverno, e quindi adesso ci proietteremo un po' verso l'inverno, dove dall'anno scorso abbiamo iniziato a fare le luci d'artista, che abbiamo messo un po' come Salerno, certo in maniera più piccola, tante luci e tanti pupazzi di Natale, ha portato tanta gente, quindi più che l'estate ovviamente quest'anno punteremo tanto sulla stagione invernale. La guerra è finita, il nemico... amico è scappato, è vinto, è battuto dietro la collina. Senta, sindaco, lo so che per lei è come toglierle un pezzo di cuore, però se io le dovessi chiedere di scegliere uno o due angoli del suo borgo da descriverci, quali sceglierebbe? Beh, diciamo che la nostra passeggiata è famosa, abbiamo la passeggiata più lunga del lago di Iseo, è veramente bella, con i pini marittimi, con tanti scorci incastonati di verde a ridosso del lago, quindi passando dalla parte centrale della piazza, delle piazze, si arriva appunto a questa passeggiata molto lunga che arriva a Villa Faccanoni, che è la Villa Liberty, e si apre tutto lo scorcio del sud del lago di Iseo, quindi vedendo Iseo e vedendo un bellissimo scorcio naturalistico che merita di essere visto. Almeno diciamo che la passeggiata al nostro lungo lago è la parte forse più bella, caratteristica di Sarnico. E per questa domenica ci fermiamo qui. Se volete scriverci, globetrotter@radio24.it. A tutti voi l'augurio di una bella settimana. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su aruba.it.